seni, la poesia di un gesto, è il calore di un respiro, il tuo respiro caldo sul mio petto, i tuoi seni lisci e duri a sfiorare la mia carne bruna sotto la tua pelle candida, la poesia di una parola, detta un po' fra i denti, accennata soltanto, come una specie di sussurro, un po' dolce, un po' spudorato. È la tua mano che mi insegna ad amarti nel modo migliore, per ore ed ore. Vous êtes pas et sans nous à mon niveau, à mon parfait, faites l'amour sans ce guerre, pas d'argent. Seul l'amour par des couleurs tu demain. Pourquoi n'est pas vu regarder et ensemble nous faisons un chant vert, ne se terminer jamais et toutes les pompes du monde, pas du cher, le cher avec les messes. Seul l'amour Québec le cœur. Bene, popolo della notte, questa volta viaggiamo sulle sensuali note dell'album Blues Alone di Francesco Muglietta, che abbiamo scaricato legalmente dal sito www.giamendo.it. Vi sarete sicuramente accorti, cari ascoltatori di Radio Rock, che l'argomento di questa puntata notturna è quello più scontato del mondo, ma forse sicuramente il più intrigante e anche il più intrigato. E infatti parliamo di sesso, però non il sesso stupido e bieco dei film porno o della televisione, dove ci sono povere fanciulle che vengono vendute sul banco un tanto al chilo come porzioni d'entrecotto di filetto francese. No, ragazzi, sto parlando del sesso che improvvisamente avresti voglia di fare con la persona davanti a te in metropolitana, quella che da 10 minuti, anzi da più di 10 minuti, non fa altro che fissarti e di cui puoi sentire addirittura il profumo se ti concentri. Il sesso che hai fatto un numero indefinito di volte con una certa persona, perché non vi bastava altro che sfiorarvi per accendere la fiamma. Il sesso che hai fatto la prima volta mentre tremavi un po' dal freddo, un po' dall'emozione, e ancora non avevi capito qual era il giusto approccio col tuo stesso corpo, oltre che con quello del tuo partner. A proposito di questo, mi viene voglia di uscire un po' dagli schemi della puntata per raccontarvi cos'era la prima volta, cos'è stata, insomma, per il sottoscritto. È stata un'esperienza farcita di sabbia, di freddo, di incontri ravvicinati con cani rabbiosi e anche con un guardia spiaggia. Non preoccupatevi, non ho fatto niente di strano. È che un povero 17enne e una sprovveduta 16enne avevano deciso di andare in spiaggia alle 10 di sera. Però la Riviera del Conero è un po' troppo abitata, insomma. Come prima volta, però è stato divertente. Se non altro ci siamo fatti un sacco di risate. E allora parliamo del sesso che ti viene spontaneo, quello senza bisogno di troppi corsi di aggiornamento. Il sesso che scopri per la prima volta nelle sue forme più fantasiose, grazie a quell'amante così disinibito, quel sesso spinto e trasgressivo che non hai mai avuto il coraggio di chiedere, ma siamo insieme da tanto, che ne dici di cominciare a spingerci oltre? Il sesso che sogni dal tuo banco di scuola, mentre il tuo sogno erotico per eccellenza, cioè la tua prof di inglese, si muove e gesticola con disinvoltura. E poi cammina avanti e indietro, avanti e indietro. E ogni volta che si gira di spalle senti un fremito, pensi che non puoi trattenerti, avresti voglia di prenderla lì, davanti a tutti. Poi abbassi gli occhi di scatto appena lei si gira ed incrocia il tuo sguardo. Non hai il coraggio di dirglielo. Chissà però cosa pensa un insegnante di 35-36 anni, mentre si accorge che un ragazzo di 16 o 17 la sta guardando con quell'inequivocabile espressione da lupacchiotto affamato. Ma non saprei. Magari fra di voi ascoltatori c'è qualche insegnante e ci può anche illuminare a proposito. Per questo motivo, intanto, e anche per altri, insomma, io vi lascio la nostra email, liberopensieroberto, tutto attaccato, @libero.it. Mi raccomando, scriveteci anche cosa ne pensate dell'argomento di questa notte, insomma. Per ora è il momento di musica. Il brano che abbiamo ascoltato prima era Faites l'amour, quello che abbiamo, scusate la pronuncia francese, insomma, io non so il francese, abbiate pazienza. Quello che ci ha accompagnato negli ultimi 4 minuti invece è For Long Time. Ed ora, miei piccoli assatanati, vi lascio la bella Take Your Heart Sober. In the middle of my arms, I found your love. I close my eyes and I feel the pain in the middle of my bed. I feel your anger. in the middle of my arm. I'm a fire, fire all alone. La masturbazione. È inutile cercare risposta al di fuori di me stesso. Io conosco molto bene sia la domanda che la risposta. Gli orgasmi che mi concedo io? Quelli sì che sono forti. Suono la melodia come fossi un precisissimo violinista, che non guarda neanche più il proprio spartito, perché conosce a memoria l'intera sinfonia. Adagio, lento, vivace, allegro e poi... il gran finale. Ci vorrebbero anche le trombe, gli applausi, i fiori, l'inchino. A volte l'intreccio melodico si fa più ardito. Il finale tarda ad arrivare. Il termine venire mi pareva un po' troppo scontato. Ed ecco che mille pensieri disturbano quella che potrebbe essere un'azione eroica. Dovevo dire erotica. Di pochi minuti. Un'ora. Due ore. Fino a dimenticare il motivo per cui avevo preso il violino in mano. Ah, ecco sì, la melodia. L'attenzione cala, e non solo quella. Il direttore d'orchestra va a prendersi un caffè. Le immagini, finora cercate, svaniscono nel nulla. Ed io mi sento quasi ubriaco di me stesso. Poi, all'improvviso, compare lei. Il mio sogno erotico in tutto il suo splendore. È l'odore che mi sforzo di sentire. Ed ecco che l'intera orchestra si rimette a suonare. Forte, sempre più forte, sempre più veloce. Ecco lei, il sogno erotico che mi lascia fare proprio quella precisa cosina. Quella che mi fa impazzire. Quella che mi fa perdere il controllo. Quella che può esplodere il palazzo, ma io sono troppo preso per darmi una calmata. Ed ecco, il mio assolo di violino supera tutti gli archi e tutti i fiati. Il maestro facendo di fermarmi, ma non posso. Ormai non posso perché ho superato il punto di non ritorno. No, sì. No. E invece sì. Sì. Sono senza fiato mentre cerco di riprendermi. Due secondi dopo, quell'immagine è già sparita, insieme al suo odore. E torno d'improvviso nel silenzio della mia stanza. Mi guardo intorno. Resto solo per un momento con l'amaro in bocca. È un freddo che mi viene un po' di pelle d'oca. Mi rivesto in fretta. Sospiro di sollievo. Altro sospiro. Eh sì, gli orgasmi che mi concedo io, quelli sì che sono forti. Su, forza ragazzi, perché non parlare di masturbazione? Tanto è una cosa che ci accomuna tutti, lo facciamo tutti, è inutile far finta di niente. Io li conosco, quelli che dicono, quelli in compagnia che dicono sei un porco, o le ragazze che dicono ah sei una porca. Ma come sei una porca? Ma vorresti dirmi che tu ragazza non ti sei mai toccata, non ti tocchi? Dai, non posso credere che nella tua vita non hai mai sentito un certo fuoco accendersi, quello strano tremore che ti prende lo stomaco, anzi no, cioè non lo stomaco, un po' più giù, un po' più in basso, dove c'è la pancia, e non hai mai sentito quell'incredibile voglia di stringere qualcosa? Dai, per favore, anche tu, caro il mio puritano, quante volte ti sei chiuso in camera con la musica alta? Facendo finta di ascoltare gli AC/DC per non farti sentire da tua madre, oppure ti sei chiuso in bagno per mezz'ora, tre quarti d'ora, insomma, facendo finta appunto di far la doccia. Ragazzi, è inutile che scherzate. Fra l'altro, Tra l'altro io non capisco perché ci sia questa sorta di super tabù nei confronti della masturbazione. Io credo che sia un momento molto importante della nostra vita, credo che abbia a che fare con l'amore che abbiamo per noi stessi. Del resto siamo gli unici che ci conosciamo bene quello che vogliamo, come siamo fatti. E quindi ragazzi, insomma, smettetela di fare i puritani e tirate un po' fuori questa vostra realtà. Allora, io nel frattempo vi rilascio la nostra mail, anzi la nostra email, che è libropensieroberto@libro.it. Scrivetemi, non è che state a scrivermi tutti i particolari delle vostre masturbazioni, Vabbè, insomma, se me le volete scrivere, scrivetemene pure. Magari la prossima puntata di Radio Rovi è un po' più piccante di questa. Io nel frattempo vi lascio con il prossimo pezzo, ragazzi. Tenetevi forti. È Summer With You. Oppure Summer With You. With You. With You. With you. Ma che si dice? With you. Summer With You. Every day I feel your hands in my body. It's a special day when you are with me. I don't forget the summer with you. You remember my song when I sing only for you. Do you remember the first night when together you and me? Keep your hand and follow me. Thank you. Andrea, un'estate con te. Oh sì, me la ricordo bene, amante mia. Io ricordo bene cosa vuol dire fare l'amore dentro la tenda in pieno giorno in campeggio, rischiando di morire fra l'altro di caldo, e oltre a farci, insomma, rischiare di farci sentire da tutti quelli che ci sono intorno, le mamme che chiamano i bambini, e noi dentro la tenda in silenzio il più possibile a cercare di trattenere il respiro e sudare, scambiarci perfino l'odore delle nostre carni. Io un'estate con te me la ricordo molto bene. Mi ricordo cosa vuol dire, per esempio, scegliere l'albergo per la settimana di mare con assoluta noncuranza. Basta che il letto sia solido e la doccia spaziosa. E come posso definire un'estate con te? Non so, sensuale? No, non mi piace. Un'estate con te è proibita? No, ma neanche questo mi piace. Proibita da chi, poi, insomma, questo termine non mi è mai piaciuto. Un'estate con te è totalmente carnale. Questa puntata però è dedicata anche a tutte le altre facce dell'amore. Insomma, lo sappiamo bene, quelle alternative. Perché molti di noi, molti degli ascoltatori e noi, insomma, sono persi in incontrollabili feticismi. La passione per le cose più stravaganti, che ovviamente non sono stravaganti per chi le desidera. Il dolore, l'umiliazione, i sex toys. Adesso vedo che nei supermercati finalmente c'è una sezione dedicata ai sex toys ed è bellissimo vedere le signore di una certa età che si avvicinano e guardano curiose, cercano di capire come funzionano alcune cose, e i loro mariti che si avvicinano anche loro esterrefatti, perché dicono: ma mia moglie è impazzita, cosa sta guardando? Insomma, sono anni che non guarda determinate cose. Ah, fra l'altro, una parentesi proprio, qualcuno mi spiega come funzionano gli anelli vibranti? Ecco, dopo questa piccola digressione, naturalmente, come posso dimenticare i piedi? Come si fanno a ricordare i piedi fra i feticismi più assoluti? Per me i piedi sono l'essenza della femminilità. In sole 5 lettere, l'essenza della femminilità. In sole 10 piccole dita, l'irresistibile carica sessuale. Piedi. E chi lo dice che sono l'ultima parte del corpo? L'ultima, certo, per chi vede con occhi di pipistrello. Piccoli, paffuti, bianchi, o forse scuri, lisci e perfino lunghi. Come potrei negare? Ciecamente attratto, istinto animale, passione deviata. Ecco ciò che sono. E tutto in secondo piano passa. E tutto il mio corpo trema, tutta la mente annebbia. E la mia sconfitta qui dichiaro. Al dolce femminile piede. Bene, Radio Rò di Notte volge al termine. Io spero che questa puntata erotica vi abbia stuzzicato almeno un po'. Non so voi, ma io mi sono divertito parecchio. Prima di lasciarvi, vi ricordo che tutti i brani che abbiamo ascoltato sono stati scaricati legalmente dal sito www.giamendo.com. Mi raccomando, forse prima ho sbagliato, ho detto it, e invece è www.giamendo.com. L'album è Blues Alone, l'artista Francesco Muliedda, e debbo elencarvi il titolo delle canzoni, anzi dei brani. Dunque, Fat l'amour è anche qua il francese, insomma, fare l'amore, For Long Time, Take Your Heart Soul, All We Need Love, Ned scritto N-E-D-D, non so cosa voglia dire, non so se è un errore di battitura, non importa, A Summer With You, Alone, e poi credo Bossa Rosa che abbiamo in sottofondo, non so. Lasciatemi dire una cosa prima di prima di salutarvi. Ah, a proposito, mandateci le vostre mail per le prossime puntate, insomma, le vostre fantasie. La mail è liberopensieroberto@libero.it. Vi stavo dicendo prima, io parlavo di un'estate carnale. Lasciatemi quest'ultimo minuto per leggere una cosa che ho scritto, che si intitola proprio Carnale, ed è dedicata a quella persona. Fruscio d'abiti a volare sul pavimento, l'odore del tuo collo, l'odore del mio collo, bianchi seni vedo aprirsi e poi riaprirsi e poi riaprirsi. È inarcata adesso la tua schiena, t'abbandoni persa sulla forza delle braccia, le mie braccia che ti reggono, che ti stringono, che ti schiacciano con violenza. L'odore del tuo collo, l'odore del mio collo. Carne sopra carne di colori differenti, carne dentro carne d'un piacevole dolore. L'una silenziosa, sudata e stravolta, l'altro bestia urlante come un toro condannato a morte nell'arena in mezzo alle tue gambe. L'odore del tuo collo, l'odore del mio collo. L'arena prende fuoco, il toro prende fuoco. Non più silenziosa, l'una urla di piacere, mentre l'altro, non più bestia urlante, lascia esplodere il momento. E poi, sempre più lento, e poi, sempre più lento, e il toro sbuffa a stento, accasciato nell'arena, lentamente muore. Ma l'odore, sente sempre quell'odore, l'odore del tuo collo, è l'odore del tuo collo che m'ha ucciso.